E allora si torna in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre silenzio assordante ai microfoni, e abbiamo in collegamento un compagno, come avevamo annunciato prima, che si trova in Grecia. Ci senti intanto? Sì, ciao a tutti e tutto. Ciao, ciao. E allora, con te volevamo un po' aggiornarci un po' su quello che sta avvenendo. Abbiamo visto nelle ultime proprio ore, giorni, settimane, insomma, si sono mosse tante cose. Intanto, se ti va, ti chiederei degli aggiornamenti sulla questione Dimitrico Fundinas, che abbiamo insomma affrontato qui in radio ampiamente. Se ci sono aggiornamenti da fare, se no ti lascio la parola, vai tu, poi ci facciamo una chiacchierata. Sì, allora, sulla questione di Dimitri, diciamo che dal punto di vista sanitario la situazione non è cambiata rispetto a qualche giorno fa, nel senso che si trova sempre in condizioni critiche, si trova sempre nell'ospedale di Lamia, piantonato nel reparto di terapia intensiva. Dimitri aveva fatto una decina di giorni di sciopero della fame, però ormai è già da quasi una settimana che ha accettato, su consiglio dei suoi medici curanti della famiglia, perché stava rischiando di perdere i reni, di farsi attaccare una flebo col siero idratante, per cui di fatto insomma è idratato, e adesso si tratta di tra virgolette solo uno sciopero della fame. Ormai i giorni cominciano a essere veramente tanti, se non sbaglio siamo più al 72esimo. Esatto, e chiaramente insomma anche col siero idratante non si sa quanto Dimitri potrà tirare ancora a lungo. Ricordiamo che i medici, quelli assegnati lì dall'ospedale di Lamia, si sono comunque dimostrati abbastanza regolari, perché appunto, nonostante ci siano già due pendenze dalla procura di Lamia che diciamo invitano i medici a nutrire forzatamente Dimitri, questi si stanno invece rifiutando, dicendo che finché lui è cosciente non hanno la minima intenzione di farlo, perché insomma questo è un dato per quanto riguarda lo sciopero della fame positivo. Ovviamente più passano i giorni, più aumenta la possibilità, che ormai è diventata una certezza, che in ogni caso, anche se lui smettesse adesso, lo sciopero della fame riporterà dei danni che saranno poi permanenti. Ovviamente per capire dove e di quale entità bisognerà appunto aspettare i mesi di riabilitazione. Per quanto riguarda la questione legale, è finalmente arrivata ieri la risposta di questo meccanismo, di questo organismo che si chiama CHEM, che è una sorta di corrispondente della nostra direzione penitenziaria, alle sue richieste di revoca del trasferimento a Domokos. Ricordiamo che questa richiesta era stata fatta da Iana Kurtovic, che è il legale difensore di Dimitri a inizio di tutta questa faccenda, per cui a inizio gennaio. Questo organismo se ne è sempre insomma fregato di rispondere a questa richiesta, e ieri ha risposto ovviamente dando parere negativo per le due richieste che sono state fatte, però grazie a questo rifiuto adesso l'avvocato potrà appunto appellarsi a un tribunale, perché per la legge greca insomma senza una risposta negativa, due risposte negative da parte del CHEM al trasferimento, non è possibile appellarsi a un altro tipo di insomma soggetto giuridico, per cui adesso gli avvocati appunto presenteranno ricorso insomma a una sorta di corte più alta, e questi direi che sono gli aggiornamenti insomma per quanto riguardano lui. Mm-hmm. Per quanto riguardano la sua situazione medica e legale, ovviamente poi appunto fuori le mobilitazioni e le assemblee quasi quotidiane stanno continuando. Ieri c'è stata una manifestazione enorme. Pronto? Ok, vai, ti eri interrotto un attimo, ora ci siamo. Ieri dicevo c'è stata una manifestazione enorme, forse una delle più grandi da quando c'è la mobilitazione per lo sciopero della fame. Ad Atene c'erano quasi 12.000 persone in solidarietà a Dimitri e contro appunto la brutalità della polizia, insomma un corteo che ha travalicato la questione specifica di Dimitri per abbracciare anche un po' quella che sta diventando insomma quella che è diventata un po' il primo punto, no, dell'agenda politica greca, che è appunto la violenza e la brutalità della polizia. E questo per quanto riguarda la situazione di Dimitri, insomma direi che è tutto, ecco. Mm-hmm. Per quanto riguarda gli aggiornamenti. Ok, e poi insomma in realtà poi volevamo chiederti anche un po', visto che non so se sulla scia anche di queste mobilitazioni qua, o comunque anche a prescindere da queste, ce lo dirai magari un po' tu, poi si sono mosse diverse altre piazze lì in Grecia. Abbiamo visto, insomma, proprio negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni proprio, cioè, insomma, il tema principale era contro la violenza poliziesca, un po' che si è vista anche legata alla situazione legata alla pandemia, insomma. Quindi se sì, allora, come anche lì in Italia e penso più o meno ovunque nel mondo, anche la Grecia si sta prestando a entrare in quella che pare essere la terza ondata di epidemia da Covid-19. Conseguentemente il governo di Mitsotakis da qualche settimana sta cominciando, insomma, a martellare sui media dicendo che, appunto, si sarebbe dovuti adottare tutta una serie di misure in più per cercare di tamponare il più possibile questa terza ondata. Una premessa, secondo me, da fare, l'avevo già ricordata anche altre volte che ci eravamo sentiti, qua di fatto non c'è mai stato un rilassamento delle misure, nel senso che di fatto da ottobre tutta la Grecia è quella che in Italia si chiama zona rossa, per cui vendita al dettaglio chiusa, scuole chiuse, coprifuoco alle 21 nei giorni feriali, alle 18 nei giorni festivi, e queste misure bene o male sono rimaste da ottobre, nel senso che c'è stato un timido tentativo di aprire le attività commerciali e le scuole a dicembre, che poi è stato subito, dopo un paio di settimane, subito rientrato, per cui diciamo che il governo si trovava di fronte a una situazione in cui l'unica misura che poteva intraprendere, che poi quella che è stata intrapresa, è stata quella di sostanzialmente sguinzagliare più poliziotti per cercare di far rispettare di più i divieti di circolazione, che di fatto già esistono e già esistevano, no? Mm-hmm. Nel senso che l'altra ipotesi, che ovviamente per una serie di motivi legati alla situazione economica risulta impraticabile, sarebbe quella, insomma, di un lockdown vero, generalizzato, un po' come era successo a marzo, però appunto un'ipotesi che ovviamente dal punto di vista politico è inapplicabile, e per cui di fatto da qualche settimana sono aumentati di più i controlli delle forze dell'ordine in quello che sono le appunto i divieti di circolazione, i vari lockdown, e ci sono state un sacco di retate questo weekend, il weekend appena passato, soprattutto nei parchi, dove magari e questo fa appunto capire anche la razza, no, che si muove dietro a determinate misure, insomma, quanto, poi vabbè, la sarebbe da aprire un capitolo, quanto, insomma, può essere dannoso una persona che va al parco, insomma, a farsi gli affari suoi all'aria aperta anche senza maschera, o una persona che passeggia alle 11 di sera, esatto. Vabbè, ma questo, in questa scia sono stati fatti una serie di controlli straordinari nel weekend. Ci sono stati una serie di episodi che hanno fatto il giro del web, per cui di poliziotti tantissimi che fanno vere e proprie retate, sembrano quasi dei blitz, no, per arrestare qualcuno nei parchi, per staccare qualche multa, e una di queste vicende ha scosso particolarmente l'opinione pubblica, nel senso che domenica 7 marzo a Neas Myiarmi, un quartiere residenziale dell'Attica, peraltro un quartiere neanche particolarmente popolare, un quartiere abbastanza, insomma, middle class, i poliziotti hanno fatto irruzione nella principale piazza cittadina per dare multa a qualche famiglia che era la seduta, però questa volta rispetto alle altre la gente non è stata zitta, ma ha cominciato così a reagire al controllo di polizia. La situazione ha subito un'escalation rapida, nel senso che alcuni passanti si sono fermati per intervenire, la polizia ovviamente reagendo nell'unico modo che la polizia greca conosce ha chiamato un sacco di rinforzi, e la situazione si è risolta con manganellate da destra, ma anche con quattro arresti, quattro persone che sono state fermate e poi rilasciate la sera stessa. Il video, che è abbastanza effettivamente impressionante, appunto, pensare a, insomma, di un ragazzo in particolare che viene fermato e viene manganellato in mezzo a questo parco perché gli volevano dare una multa, ha fatto in poco tempo il giro del web, ha fatto il giro di bocca in bocca delle persone di questo quartiere Neas Myiarmi, e nel giro di neanche un'ora un corteo indetto da un'assemblea di quartiere che si muove da qualche anno lì ha raggruppato più di 1000 persone, per cui 1000 persone che un'ora dopo questi fatti ha marciato nel quartiere, ed è stato a sua volta il corteo attaccato dalle forze dell'ordine verso la fine della manifestazione. Ovviamente tutte e due queste scene, per cui sia la scena del pestaggio di questo ragazzo che la scena del corteo caricato hanno appunto sono diventate virali, hanno cominciato a girare, e da subito questa assemblea aperta di Nesmian insieme ad altri soggetti hanno indetto per due giorni dopo, per il 9 di marzo, un corteo serale che sarebbe dovuto appunto partire martedì proprio dalla piazza centrale di Nesmian, la piazza quella di cui appunto l'episodio del testaggio di qui sopra di cui parlavo. E diciamo che la notizia è montata ed è diventato un vero e proprio fatto sociale, nel senso che la scena che si presentava chi è andato al corteo, a chi si è presentato alle 6 in piazza Nesmian, era di una piazza con un numero di persone incalcolabile, complici anche ovviamente appunto un quartiere periferico, per cui con delle strade piccole, la situazione era veramente impressionante, con questa piazza congestionata di gente e con gente accalcata anche nelle vie laterali, per cui fin da subito diciamo si è capito che il corteo non avrebbe avuto una forma tradizionale, vuoi anche appunto per la particolare conformazione del quartiere, per cui verso le 19 1000 corteini hanno cominciato a muoversi dalla piazza principale, però tutti confluendo verso un unico obiettivo, peraltro l'unico obiettivo in cui erano visibili le forze di polizia, che è il commissariato locale, quello a cui appartenevano gli agenti che hanno fatto il controllo il 7 di marzo, e lì insomma è successo l'inevitabile, nel senso che appena i cortei hanno intravisto le camionette messe di traverso e di idrante, sono partiti una salva di fuochi d'artificio che hanno fatto da preambolo a tutto quello che è venuto dopo, per cui molotov, sassi da una parte, invece lacrimogeni, granate stordenti e cariche dall'altra. La cosa notevole che mi preme sottolineare è che appunto, vista sia la quantità di gente che c'era, vista la reazione dei poliziotti, soprattutto del loro modo particolare di muoversi qua in Grecia, con anche queste unità, no, di celerini in moto, che per cui si muovono in squadre abbastanza piccole, di fatto la situazione è esplosa, e da un fronte unico che era quello appunto di questo commissariato di polizia, la situazione è velocemente degenerata, prendendo una dimensione veramente larga. C'erano per cui tantissimi diciamo così campi di battaglia in questo quartiere, ovunque ci si muoveva c'era gente in giro. Un altro fatto notevole secondo me è che al di là delle persone impegnate a fronteggiarsi con la polizia, comunque erano tantissime quelle che stavano comunque in strada pur non facendo niente, che in questo modo cercavano di dare insomma un supporto a chi in strada invece ci stava. Ovviamente si parla di una dimensione per quanto grande dal punto di vista numerico e dal punto di vista qualitativo, per cui della varietà dei soggetti tra virgolette sociali coinvolti, relativa anche dal punto di vista temporale, perché la situazione sarà durata più o meno 3 ore, però insomma una situazione che effettivamente potrebbe ricordare abbastanza da vicino una sommossa per quanto riguarda le sue caratteristiche. Il bilancio di questa giornata è stato una trentina di persone fermate peraltro in maniera molto brutale, una decina di arresti che sono poi stati tutti rilasciati nei giorni successivi dopo un processo per direttissima, di molti danni a banche o a alcuni negozi della zona, di vari cassonetti bruciati per farne barricate e di alcuni poliziotti feriti, di cui uno in maniera particolarmente grave. E questo poliziotto in questione, secondo me è bene ricordarlo, è un poliziotto di questi team Delta che appunto dicevo prima, per cui Celerini Motorino, un team che insomma è particolarmente odiato e particolarmente invidiato in tutta la Grecia, perché questi poliziotti sono famosi per essere particolarmente brutali, tant'è che durante diciamo il mandato di Syriza appunto il governo di Tsipras gli aveva imposto insomma di sciogliere il corpo, e poi sono stati ripristinati appena la democrazia è salita al potere. La cosa interessante di tutta questa vicenda, che almeno a me personalmente ha sorpreso, è stato ovviamente quello che è successo dopo, per cui quelle che sono state le reazioni, sia le reazioni del personale politico istituzionale, per cui da una parte ci sono state quelle assolutamente banali e scontate dell'opposizione, Syriza e Kukue in testa, che ovviamente demonizzavano, no, la violenza di piazza e delegittimavano. Però quella che ha sorpreso di più è stata la reazione di Mitsotakis, del Premier, che appunto non ha esitato in altre in situazioni passate, anche relativamente recenti. Mi viene in mente le dichiarazioni che aveva rilasciato dopo i cortei attaccati il 17 novembre e il 6 di dicembre, appunto dichiarazioni sempre incendiarie, sempre all'attacco. Questa volta invece ha proprio cambiato tono e ha usato un linguaggio più mite, facendo dicendo che lui non voleva alzare la tensione per evitare di dividere un paese che, a detta sua, era riuscito ad unificare con appunto la vittoria delle elezioni. Questo per cui è importante, secondo me fotografa, poi volendoci possiamo ritornare dopo, quella che di fatto è una crisi enorme che sta attraversando il partito di governo nella democrazia, una crisi che lo ha completamente travolto, e soprattutto travolto in un momento in cui paradossalmente sembrava, sia dal punto di vista dei sondaggi che dal punto di vista di una mobilitazione sociale ampia praticamente inesistente, abbastanza sulla cresta dell'onda, che invece da un paio di mesi sembra assolutamente in difficoltà e che addirittura comincia ad avere delle voci di dissenso al suo interno, nel senso che una parte di Nea Democrazia pare che, appunto, visto insomma le figuracce che sta cominciando a collezionare Mitsotakis, insomma, pronta a scaricare il loro leader per cercare qualcuno per evitare di trascinare il partito in un buco nero. Dall'altra parte, le alterazioni interessanti da fotografare sono le reazioni di movimento e reazioni più di base, che a me personalmente hanno sorpreso, perché a fronte di un poliziotto fermato, effettivamente pestato, immagini che hanno fatto il giro dei media, soprattutto ovviamente dei media di destra, con questo poliziotto per terra sanguinante. La cosa che mi ha sorpreso è come poi comunque il giorno dopo, appunto, a parte alcuni giornali molto politicamente schierati, la maggior parte dei media, ma soprattutto dell'opinione pubblica, di fatto continua a discutere su quello che era l'operato della polizia, che appunto dopo questo ferimento comunque ha fatto una serie di porcate, per cui ci sono stati dei raid. Peraltro c'è un racconto molto brutto che sta girando queste ore di una ragazza che sarebbe stata fermata dai MAT la sera degli scontri, che sarebbe stata minacciata in questura più volte di stupro. Peraltro un celerino le avrebbe appunto toccato insomma a sedere, dicendole quanto le avrebbe fatto piacere stuprarla proprio lì. Insomma, queste sono tutte storie che stanno uscendo, però la cosa effettivamente sorprendente è di come, non so come dire, davanti a un fatto di questo tipo, che è stato, per cui il pestaggio di questo poliziotto, che è stato sbandierato come spauracchio, nessuno si sia tirato indietro, ma anzi questa cosa sembra aver rilanciato una mobilitazione, tant'è che appunto nei giorni successivi, come ho detto, ci sono state altre mobilitazioni, altri cortei piccolini, sia grossi, in quartieri, in città sperdute, in piccole isole, contro la brutalità della polizia. C'è stato questo corteo enorme, come dicevo prima, ad Atene, in solidarietà con Koufoudinas. Il giorno dopo, per cui il 10 di marzo, c'è stato lo sgombero, per esempio, del rettorato dell'Università di Salonicco, che era occupato da studenti da qualche settimana, e la reazione è stata impressionante, nel senso che c'è stato uno dei cortei, penso, più grossi degli ultimi tempi a Salonicco, con più di 8.000 persone, che è culminato con scontri con le forze dell'ordine. Appunto, per cui una situazione che sembra ben al di là di essere finita, e sembra credo che una cosa che si può dire è che questi fatti di Nea Smirne, più che sembrare così una fiammata piuttosto che l'apice, no, di una situazione, sembrano invece aver veramente aperto una nuova fase politica. Però questo ovviamente è ancora, insomma, certo, presto per dirlo. Certo, guarda, infatti ti faccio una domanda un po' che è un po' la solita, però in questo caso credo sia abbastanza importante capire. Mi sembra di aver capito dalle tue parole che la miccia di questa di soprattutto di quanto hai raccontato tu sia stata anche abbastanza casuale, no? Cioè, parliamo di una retata fatta un po' a caso così, però ovviamente poi si sa che queste cose sono situazioni che, magari, come si dice, bolle, cioè la pentola che bolle, e poi basta una piccola cosa a far esplodere un po' la rabbia delle persone, eccetera. Quindi un po' ti chiedevo la composizione, credo di aver capito che era soprattutto la prima reazione abbastanza mista, quindi parliamo proprio di popolazione che è scesa in piazza, perché se era così partecipato il corteo, come dicevi tu, soprattutto i primi. E quindi un po' su questo, per capire meglio un po' com'era la composizione, e anche la composizione di quanto può andare avanti a partire da questo. Sì, ovviamente quello che dirò è assolutamente parziale, perché appunto è un processo che veramente è, certo, in corso d'opera, che cambierà giorno per giorno. Sì, sicuramente la prima reazione è stata una reazione di quartiere, la seconda no, viste, okay, le dimensioni notevoli. È difficile stabilire a priori quali sono le categorie che sono scese appunto in piazza, in strada. Al di là di alcune categorie che sono già mobilitate, come dicevo prima, per esempio le varie situazioni di solidarietà con Dimitri Kufodinas, che comunque da mesi, certo, che si muovono in strada, hanno avuto un'importanza in quel corteo. Sicuramente c'erano avuto anche gruppi di studenti che, lo ricordavo forse un'altra volta che ci avevamo sentiti, di fatto hanno inaugurato, no, ormai quasi due mesi fa, quella che è stata la prima contestazione veramente di massa, no, al governo di Nea Democrazia, mm-hmm, per cui comunque questi studenti scendono da un sacco di tempo ogni settimana in piazza, e un ruolo abbastanza importante in questo caso ce l'hanno avuto anche elementi del tifo insomma organizzato delle varie squadre di Atene. A livello sociale io credo che a un primo occhio, insomma, nella manifestazione del 9 ci fosse veramente uno spaccato grosso società greca, nel senso che per esempio c'erano anche presenti anche alcune sigle sindacali, e credo che secondo me le persone che erano in strada a Smirne rappresentano in buona sostanza quella parte di società che sta vivendo veramente con estrema sofferenza tutta questa situazione da Covid, e che ovviamente in questa situazione, che come dici tu era casuale, ha trovato proprio una fiammata per potersi esprimere. Su quali sono le categorie che anche in futuro si potranno mobilitare di più, si mobilitano di più, adesso è veramente difficile rispondere. La cosa secondo me interessante da sottolineare è il fatto che teoricamente, poi immagino che tutto questo stia facendo pesantemente rivedere l'agenda di governo, teoricamente a breve dovrebbe anche essere approvata un'ulteriore riforma del mercato del lavoro, per cui che ovviamente, certo, va in senso liberale e peggiorativo, e soprattutto dovrebbe essere sbloccato, la data non c'è ancora, però si parlava genericamente di questa primavera, una legge che è stata approvata, che però è stata tenuta in sospeso per la questione Covid, che è quella della pignorabilità della prima casa. Perché insomma due questioni importanti che secondo me ovviamente adesso il governo farà di tutto per cercare di rallentare il più possibile, per evitare insomma di aprire delle questioni di questo tipo in un momento così delicato come questo. Sì, no, appunto te lo chiedevo, appunto, insomma, la scusa un po' della famosa composizione, che è un tema sempre un po' così, che a volte lascia anche un po' il tempo che trova, era appunto per capire, perché sai, è un anno, adesso siamo a un anno pieno di pandemia e quindi di lockdown e quindi di modificazione oltre della vita delle persone, ma anche diciamo di una ristrutturazione in ogni stato nazione, anche del piano economico abbastanza forte e importante, e quindi un po' ci siamo, no, tra compagni e compagni ci siamo chiesti sin dall'inizio quale tipo di reazione poi appunto in ogni luogo ci potesse essere rispetto a ovviamente a tempi che, e su questo insomma non è che ci vuole né un grande statista né la palla di vetro per immaginare che insomma il periodo prossimo, almeno il breve medio, non sarà proprio così dei più semplici. Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente che si può dire a riguardo, poi ovviamente ripeto è difficile, cioè secondo me è impossibile tirare fuori dei dati da una singola manifestazione, per quanto abbia avuto comunque degli episodi molto secondo me significativi e che hanno espresso un certo grado di violenza, però credo che rispetto a diciamo le mobilitazioni che abbiamo visto in Italia per esempio quest'autunno o anche in altri paesi d'Europa sia più diciamo così meno presente la componente diciamo così dei piccoli proprietari, okay, nel senso che effettivamente sia a livello di forme di espressione che a livello di parole d'ordine è, non so, a me è sembrato una mobilitazione più non saprei come definirla, però ecco, più legata, diciamo così, a quelle che sono le classi meno abbienti, che già prima probabilmente non se la passavano ben bene, che adesso sono di fatto al palo da un anno. Probabilmente molte di queste persone sono quelli che manco hanno i requisiti per poter prendere insomma la cassa integrazione, certo, in deroga, per poter comunque godere di tutta una serie di piccoli, qua in Grecia sono proprio piccoli, però diciamo benefici che lo Stato sta provando a dare per tamponare la situazione. Sì, sì, chiarissimo, che era un po' questo, era un po' per capire appunto questa cosa qui. Ovviamente insomma immaginiamo che se appunto la miccia e le motivazioni anche sono queste, diciamo, siccome questo periodo non sembra, anzi è lontanissimo dal terminare domani o dopodomani, è chiaro che dopo un anno anche le preoccupazioni, anche un po' di pancia di no, vengono, cioè sono più forti in questo momento, questo è, credo sia inevitabile un po' per tutti e tutte, quindi insomma era un po' per capire questa situazione. Non so se ci sono, se vuoi aggiungere ancora qualcosa o se, soprattutto se ci sono, se sai, ci sono cose previste eccetera, se no. Sì, guarda, cioè ovviamente in questi giorni può continuare, cioè per ora non è ancora indetto niente a livello di strada per Cufodinas, però sicuramente ci saranno degli appuntamenti nei prossimi giorni. Quello che ci sarà di sicuro questo weekend, per cui sia sabato che domenica, sono una serie di manifestazioni, tante che sono state indette da varie assemblee, da varie organizzazioni e vari gruppi di compagni e compagne in praticamente un sacco, quasi tutti i quartieri dell'Attica e anche di altre città della Grecia, okay, contro la brutalità poliziesca, perché insomma sullo sfondo di quello che è successo a Smirni ci sarà una serie di mobilitazioni che coinvolgeranno tanti quartieri. Ok, l'ultimissima cosa mi è venuta in mente così adesso proprio che stavi parlando, vista anche le difficoltà del momento, se ti va di dirci così in chiusura due parole anche su come ci si sta organizzando, quali sono, cioè in che modo si riesce, no, visto che appunto dici da ottobre la situazione è più o meno da zona rossa, quindi immagino le difficoltà anche per organizzarsi, per stare in piazza, per fare discussioni, siano come un po' ovunque aumentate. Sì, guarda, per quanto riguarda la questione dello stare in piazza è una questione un po' relativa, nel senso che da ottobre a oggi abbiamo avuto, formalmente è sempre vietato, peraltro è sempre vietato perché ha ormai direi più di un anno fa il governo ha approvato questa legge che di fatto rende le manifestazioni non autorizzate vietate, un po' come in Italia, però prima non era così, nel senso che da un anno a questa parte anche qui bisogna autorizzare le manifestazioni. E c'è da dire che il movimento tutto, cioè nel senso anche diciamo così parti della sinistra extra istituzionale, comunque su questo sono sempre rimasti compatti, di fatto nessuno ha mai autorizzato un corteo che fosse uno. Per cui nel senso manifestare è sempre vietato due volte, sia per il Covid che per questa nuova legge che è stata approvata, e ovviamente i modi di scendere in piazza, cioè come si riesce a scendere in piazza dipende molte volte dalla controparte, e ovviamente non è un bilancio diciamo così strategico militare, ma è un bilancio politico, per cui a me non so, viene da pensare che le prime manifestazioni che ci sono state per Cufodinas probabilmente hanno sorpreso la controparte per il numero molto elevato di persone, certo, che c'erano, si parla più o meno dai 6 agli 8.000, e per cui sono state fatte, dopo un po' che venivano fatte tutti i giorni, che per cui evidentemente davano un po' fastidio, sono state caricate, però so come dire, le stesse manifestazioni con le stesse componenti, con le stesse modalità e con più o meno gli stessi numeri. Chiarissimo. Dopo i fatti di Nasmirni, ovviamente probabilmente il ministro della polizia Christokoidis ha chiamato i suoi, gli ha tirato un po' il guinzaglio, e appunto queste manifestazioni che ci sono state sono, diciamo così, hanno avuto un corso abbastanza regolare, non sono state impedite. Peraltro un piccolo episodio della manifestazione di ieri per Cufodinas, che secondo me è interessante per sottolineare questo, a fine corteo diciamo un gruppo di giovani, giovanissime, si è staccato, ma neanche troppi, un centinaio, per cacciare a sassate un'unità di Delta che si trovava poco vicino al corteo, e questi insomma hanno preso i loro motorini e se ne sono andati senza dire una parola, senza tirare un lacrimogeno, e questo evidentemente insomma rispetto a quello che ci si era abituati qua a vedere, certo, è indicativo, insomma, del fatto che ai piani alti comunque si comincia ad avere un certo tipo di timore, insomma, e si comincia un po' a tirare la cinghia. Guarda, per quanto riguarda la questione, diciamo così, delle forme organizzative eccetera, cioè, diciamo, dei luoghi che si scelgono per fare le assemblee, questo è stato un problema grosso, soprattutto diciamo, dal punto di vista di compagni e compagne, anche collegato al fatto che ovviamente con il lockdown hanno chiuso le università, che visto, insomma, la grande campagna di sgomberi che è stata fatta dalla democrazia, erano un po' gli unici luoghi in cui effettivamente ci si riusciva a ritrovare, luoghi in cui, che permettevano anche, no, per la loro conformazione, un modo di trovarsi tra virgolette abbastanza sicuro, no? Nel, certo, senso che appunto le aule sono enormi, per cui, esatto, questa cosa è stata da ottobre, di fatto questa possibilità non c'è più perché le università sono chiuse, e per cui uno spazio che è sempre uno spazio universitario, peraltro in parte occupato, che è stato trovato così di ripiego, io parlo sempre di Atene ovviamente, certo, certo, è questa struttura che si chiama FEPA, che sono, insomma, dei dormitori universitari, che al loro interno, oltre ad avere un ampio spazio all'esterno, hanno anche dei saloni e delle sale, insomma, molto grosse, in cui un po' varie componenti del movimento si ritrovano praticamente da ottobre per fare assemblee. Ok, chiarissimo. Va bene, allora, se secondo te è tutto, io ti lascio libero. Perfetto, e poi sicuramente, tanto, dai, ci riaggiorneremo, insomma, speriamo che avrai tanto da dirci nei prossimi giorni, e di bello, soprattutto, va bene? Va bene. Dai, allora un abbraccio grande, speriamo di vederci presto, e dai. Ciao, grazie. E allora, questo che è quello che abbiamo ascoltato era l'ultimo collegamento della trasmissione di oggi. Andiamo un attimo in pausa musicale e poi ritorniamo velocemente per i saluti.